abbiamo un po' di cose da raccontarvi, altre cose che ci stiamo inventando via via che andiamo avanti. Uso plurale maiestatis come se Fedra fosse qui di fianco a me, ma in realtà, come al solito, non c'è. La salutiamo, le diamo un abbraccio, sappiamo che prima o poi si paleserà, così ci ha promesso. E vi volevo dire questa cosa, non so se alcuni di voi usano, conoscono queste, anzi sicuramente, queste biblioteche gratuite, questo scambio di libri gratuiti, che non so da dove sia partito, forse da Berlino. So che a Berlino questa cosa succede molto. Fatto sta che comunque nelle piscine dove i miei figli vanno a nuotare ci sono questi angoli di spazio comune dove ci sono questi libri che chiunque può andare a donare. È una sorta di biblioteca aperta e così, ha anche un nome, adesso non mi viene in mente, dove chiunque appunto può andare a donare dei libri o prendere dei libri. E l'altro giorno, in mezzo ai libri, ho visto un CD e c'era questo CD qui. Abbastanza incredibile che qualcuno possa pensare di donare Hot Potatoes The Best of Devo, che è un CD uscito nel, non c'è scritto, molto bene, e da cui abbiamo appena sentito la famosissima Satisfaction, che naturalmente era la cover dei Rolling Stones, ma che comunque sicuramente è stato un pezzo pivotale per questa band abbastanza particolare, abbastanza coxica. In realtà è abbastanza incredibile che, se non sbaglio, questa è la prima volta che Coxo Spaziale suoni dei Divo. Detto questo, la settimana scorsa siamo stati a Imola, come vi raccontavamo, no? della mostra, siamo stati all'inaugurazione della mostra di Novella Guerra, e io volevo intervistare tutti i partecipanti, ma in realtà molti di loro non c'erano più perché perché per cause di temperatura, no, come si dice, per cause di maltempo, la mostra era stata posticipata, per cui abbiamo assistito all'inaugurazione, ma gli artisti erano già tornati ognuno nelle loro case. Amanda McGregor a Londra, no, Fabrizio Rivola mi sa che fosse malato, eccetera, e tutti gli altri, e dunque mi è toccato di sentire Annalisa Cattani, la headmaster, no, come si dice, la presidentessa dell'associazione Novella Guerra, che, no, che forse sbaglio, perché comunque dello spazio Novella Guerra lei è la direttrice, diciamo, e che ci racconta appunto che cos'è questo spazio. Siamo qui a Novella Guerra, all'inaugurazione della mostra, come si chiama sta mostra? Home, casa, no, casa fragile. Beh, la ricordavo in inglese, figurati un po'. Che cos'è questa mostra? Raccontaci. Allora, Novella Guerra è un centro residenza, ma anche un progetto artistico che è nato nel 2011. È questa casa in campagna che ho dedicato alla memoria di mia mamma, che si chiamava appunto Novella Guerra, che ha un nome, un programma, una nuova guerra, la resistenza culturale all'insegna un po' della familiarità, per stare e parlare di cose che amiamo, però stare anche bene insieme, riscoprire. Si vede che questa faceva radio su Radio Città del Capo, eh? Faccio ancora. Lo fai ancora? Sì. Ah, cavoli, scusami che non ti ascolto, ma sai, no? No, però freelance noi, ogni tanto. Noi nemici non ci parliamo, no? Ho capito. E questa mostra invece, io fra l'altro pensavo di incontrare Amanda McGregor, che non vedo da un sacco, invece non c'era, è già andata a casa. Perché come tutti gli spazi indipendenti, non devi fare dei fake degli spazi di sistema, no? Quindi ti prendi delle libertà o ti devi dare delle libertà. Per cui la settimana scorsa era brutto tempo e ci siamo dati la libertà di spostarlo. Per cui... di spostare l'opening di una settimana. Esatto, Amanda anche McGregor... perché la settimana scorsa non sarei potuto venire, per cui mi fa molto che piacere. Danno. E Amanda, esatto, era qui con il volo la settimana scorsa, adesso tornata. Eh beh, giustamente. Però ti saluta. Salutamela anche tu. E dunque chi abbiamo in questa mostra? Allora, oltre abbiamo Lorca Iruz, che è un artista libanese che però abita vicino a Treviso, poi c'è Fabrizio Rivola, che è un artista invece italiano, che è malato, per che è malato però ha una bellissima opera, non finito. Poi Dragoni Russo, che è una coppia di artisti bolognesi, e poi abbiamo Simoncini Tangi, Liuba. E Liuba che cosa ha fatto? Perché quello è effettivamente, allora, un progetto interessante. Liuba ha fatto un progetto sui rifugiati, lei ha lavorato, lavora molto con la performance, in questo periodo da anni abita a Berlino, e prima era più posizionata su Milano, però a Berlino a Oranienstrasse e nel quartiere Mitte ha fatto praticamente una specie di performance di arte partecipata in cui ha coinvolto dei rifugiati in questo video che è diventato You Are Out, dal titolo You Are Out, cui chiedeva alle persone di fare quel gioco delle sedie. Ti ricordi le sì, sedie, certo, quando andavi alle feste di compleanno, che mettevi sulla canzone, quando la canzone si fermava perdevi, certo, o guadagnavi la sedia, come metafora del guadagnarsi o meno la libertà o un posto al sole dove tu cerchi di arrivare. E è bello di questo video perché ha incontrato appunto casualmente a Berlino queste persone, se ne è fatta carico, è andata a fare dei video a casa loro, a vedere la loro provenienza, e giocava un po' sulla falsità del chiamare extracomunitario magari la persona di paesi cosiddetti del terzo mondo, l'americano invece non lo chiami extracomunitario. Ah, certo, loro sono expats. Esatto, e quindi tutto il video ha il leitmotiv di questo gioco della sedia che ogni tanto si ripete, e ogni tanto ha delle entrate documentaristiche nella loro vita. Molto bene, e se qualcuno volesse venire a vedere questa mostra durante, che ne so, da quanto tempo dura questa mostra? Allora, dura un mese, okay, e può venire per appuntamento, okay, quindi può trovare, cioè per il momento stiamo, il sito è in aggiornamento, diciamo, infatti oggi l'ho guardato per vedere, esatto, qui intanto ci sono dei bambini che stanno trascinando dentro a un fosso, uno di loro... Arrivo. Ma va bene lo stesso, dai, ti metti in radio anche te. Sì, dai, perché abbiamo fatto anche la caccia agli ometti. Greta, dimmi qualcosa di interessante per la radio. No. No, ti vergogni, lo vuoi dire tu? Qualcosa per la radio, ditelo, dopo ci mandi in radio. Vi siete divertiti la caccia agli ometti? Sì. Li avete trovato? Cos'è? Ma le uova marce le avete trovate? Delle no. Avete trovato? Ah sì? L'hai mangiata? No, che schifo. Ho capito, perché poi naturalmente essendo qua siamo in campagna con un sacco di bambini, è molto, ciao, è un'atmosfera molto, molto free. Perché è scusa. lo vuoi baciare in diretta, puoi baciarlo in diretta. C'è la pagina Facebook, giusto? C'è la pagina Facebook Novella Guerra. Perfetto. E poi se volete vedere gli interventi passati dovete andare in novellaguerraundo.net. Ah, okay. E c'è tutto un archivio che sarebbe di tutto poi Andù, che abbiamo visto la settimana scorsa a Mambo. Esatto. E loro hanno fatto proprio tutta un'archiviazione di quello bello, che è stato fantastico, fatto. Molto bene. Troverete naturalmente come al solito su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per vedere queste cose. Grazie mille Annalisa, a presto. A te. Yesterdays these are new as ever sweet sequester days olden days. Ebbene sì, questo è ancora Coxo Spaziale sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Vi ricordo che siamo registrati e vi chiedo anche di comprare un pezzo di Galapagos. Ovvero, sembra che le Galapagos, queste isole del fuori dal Cile, nell'oceano Pacifico, cercherei di non fare delle figuracce spaventose, sono appunto uno degli ultimi paradisi naturali rimasti al mondo. E negli ultimi tempi l'esplosione di turismo ed edilizia sta distruggendo l'habitat di animali e piante unici al mondo, portando molte specie sull'orlo dell'estinzione, scrive Aval. Per questo la messa in vendita di un'area naturale di 230 ettari aveva terrorizzato gli ambientalisti locali, sicuri che sarebbe stata distrutta per fare altri hotel. Ma poi hanno avuto un'idea brillante: comprare il terreno loro stessi, creare la prima riserva naturale privata dell'arcipelago e proteggerla in modo permanente. Il tempo sta scadendo, se non riusciranno a raccogliere quasi 1 milione di euro entro poche settimane, il proprietario venderà il terreno al miglior offerente. Per cui si chiede a tutto il mondo di donare. Io personalmente ho donato 5 euro, che equivale a, se non sbaglio, 20 metri quadri di Galapagos. Non che poi adesso possa andare alle Galapagos e dire: questo è il mio spazietto, mi ci metto l'asciugamano e ci vado. 52.000 persone hanno già donato, dice il sito, cerchiamo di arrivare a 60.000. su www.coxospaziale.blogspot.com domani troverete il link per poter andare a donare anche voi 5, 8 o 11 euro. E se uno ne volesse, ah no, c'è anche la casellina altro, di modo che se ne volete donare, che ne so, 160.000, potreste farlo. Merci pour votre patience. From the center of a hurricane, somewhere across the border, where I used to hang around and play, in a house near the water, in between the falling drops of rain, growing stronger and stronger. Like a lamp to the slaughter, saying I want you to notice the way that life just knocks on your door. When you're right and you know it, hey, I think we've been it before. If I could, I'd make you understand. Della menzione. Ed eccoci arrivati all'angolo della menzione. E domani 7 aprile alle ore 18 presso la Libreria delle Donne di Bologna in via San Felice 16A finalmente arriva anche qui dopo Modena Trilogia Scam, la presentazione del libro edito da Wanda e Publishing e Morellini, che presenta per la prima volta tutti gli scritti di Valery Solanas in un'unica edizione arricchita da due introduzioni critiche. Se ne parla con Deborah Ardilli, è curatrice del volume assieme a Stefania Arcara, e nel corso della serata appunto c'è Chiara Fumai che legge Valerie Solanas, introdotta da Chiara Pergola. Abbiamo sentito Chiara Pergola, la nostra amica artista, che appunto ci racconta cosa succede domani. Beh, Chiara Pergola, siamo qua di nuovo io e te a riproporre l'incontro che avevi fatto a Modena. Quando è stato? 3 settimane fa? Un mese fa? Ma adesso la data precisissima non la ricordo, però sì, grosso modo un mese fa, e siamo approdati a Bologna. Infatti, dove? In via San Felice. In via San Felice 16/A, alla Libreria delle Donne di Bologna. Invito a presentare Trilogia Scam di Valerie Solanas, che è venuto proprio grazie alla cosa che abbiamo fatto a Modena. Ah, fantastico. Esatto, quindi questa cosa è stato interesse e lo riproponiamo con un taglio forse leggermente diverso, informazioni ridotte, nel senso che siamo solo io e Deborah Ardilli. Deborah è una delle curatrici assieme a Stefania Arcara, ricordo, della pubblicazione che raccoglie tutti gli scritti di Valerie Solanas, e io parlerò del lavoro di Chiara Fumai, e il taglio è un po' proprio questo, quello di cercare di capire che cosa può dire oggi Valerie Solanas nel presente, presentando questa cosa in un contesto che è quello della Libreria delle Donne, dove il libro Scam Manifesto invece è stato molto importante in altri anni, negli anni 70, diciamo, è stato un po' il manifesto del femminismo radicale di quegli anni. E quindi discuteremo un po' tra due generazioni, credo, di questo. Ricorda a chi è distratto chi è Valerie Solanas, che come ti ho detto l'altra volta allora, è ricordata come è ricordata come quella che ha sparato a Dandy Warhol. Esatto, cosa innegabilmente vera, è colei che è passata all'azione e ha deciso di esercitare un atto di violenza verso Andy Warhol, ma Valerie Solanas è anche, prima di questo e soprattutto, una scrittrice, un'autrice di teatro, e qui in questa pubblicazione si ha proprio modo di apprezzare il suo spessore intellettuale. Valerie Solanas ha avuto anche una vita molto complessa, e devo dire che il lavoro di Stefania Arcara e Deborah Ardilli è molto accurato anche nel ricostruire la vita di Valerie Solanas, che aiuta anche a contestualizzare il gesto per la quale purtroppo viene principalmente ricordata, eccetera. E infatti hanno aggiunto, in appendice al volume, quella che hanno chiamato cronologia di una vita abietta, ricostruendo proprio le tappe principali, insomma, di quello che è stato il suo percorso e di come effettivamente si capisce che è una voce che è stata forzatamente tenuta fuori, insomma, una voce. Muore nell'88, l'anno dopo di Andy Warhol. Sì, muore nell'88 in condizioni abbastanza così di abbandono, insomma, di indigenza, e d'altra parte lei ha vissuto in una condizione veramente di estrema marginalità tutta la vita. Fa impressione confrontare, diciamo, anche quella che è la sua vita con, se qualcuno ha mai preso in mano, per esempio, i diari di Andy Warhol. Ecco, c'è un gap, direi, praticamente. Vabbè, i diari di Andy Warhol magari erano degli anni 80, però insomma. Beh, comunque, insomma, non penso che poi, voglio dire, il tipo di vita che conducevano fosse radicalmente diversa negli anni 60 e 70. Ecco, ma io penso che ci sia proprio uno scarto notevole, cioè c'è un certo ambiente che viene descritto bene, comunque, insomma, di cui uno si fa un'idea, però penso che ci sia proprio uno scarto quantico tra la dimensione esistenziale cui è stata costretta Solanas, e dalla quale, nonostante la condizione di marginalizzazione forzata, è riuscita comunque a prendere parola, quindi, insomma, diciamo, un soggetto imprevisto, come avrebbe detto Carla Lonzi. E invece parliamo di Chiara Fumai. Di Chiara Fumai. Lei ha realizzato, dunque, la ragione, diciamo, forse si potrebbe dire anche un pretesto per parlare del lavoro di Chiara in questo contesto è che lei ha realizzato questo lavoro su che si chiama proprio Chiara Fumai, legge Valerie Solanas, in cui lei ha preso dei brani di Scam Manifesto e li ha letti, ma inserendoli all'interno di una performance. Il lavoro di Chiara è proprio, direi, lo spunto più evidente per poter capire meglio che cosa ci dice Valerie Solanas oggi. Quindi per questo motivo, diciamo, cercherò, insomma, di dare alcune coordinate su quelle che sono le chiavi di lettura importanti su Chiara Fumai. Perfetto. Dunque ci vediamo domani alla Libreria delle Donne. Esatto, domani Libreria delle Donne, ore 18, via ore San 18. Felice, 16/A. Mi raccomando, partecipate numerosi. Vi ok, aspettiamo. Grazie mille. Ciao a tutti. Sempre domani, stavolta però a Imola, sempre domani, sempre alle ore 18, il Pomo d'Adamo Contemporary Art presenta Sotto il cielo, mostra personale di Stefano Scheda, a cura di Angela Madesani. La durata della mostra è dal 7 aprile, che è domani, fino al 19 maggio 2018, e Stefano Scheda in questa mostra compie un ulteriore passo avanti in quel suo tipico processo che lo vede da sempre intento a mettere in relazione dialettica, corpo, architettura, paesaggio. Nelle foto presentate quello che affiora in superficie è un'ambigua traccia, il segno di un dolore che il corpo espande nel vorticoso gioco della messa in scena, che para inconscia, frammento in bilico tra sogno e realtà, tra precarietà e resistenza, fuori dentro il mare e la morte. Il linguaggio ibrido attinge dall'installazione alla performance, dal medium fotografico alla pittura. Il tema è la fragilità dell'uomo, del suo viaggio in balia degli eventi e del destino di questi corpi inconsistenti, dove la paura è sottesa ma non emerge. Trovate tutto, questo è al Pomo d'Adamo, via 20 settembre 27 a Imola, e trovate tutto su www.ilpomodadamo.it. A proposito di fragilità, ascoltiamoci Leone. nessuno ti vedrà da quella porta che ho aperto ieri, ma di nuovo è chiusa perché fa male sapere cos'è via di qua. La porta aperta ormai, chiunque passa qui si ferma per un ciao. Chi sei? Se vuoi puoi restare, ti prego almeno tu fammi dimenticare. Noi siamo fragili, cristalli che si rompono col soffio di uno sguardo che ci ruba tutto quello che non ha. E facili gli amori facili, cristalli che si spezzano col fiato di un istante che ci lascia sempre soli qui. Sei sconosciuta donna, sei, mi piace un mondo ormai, ti bacio e non so che fare, mi chiedo è così facile dimenticare. Siamo fragili, cristalli che si rompono col soffio di uno sguardo che ci ruba tutto quello che non ha. E facili gli amori facili, cristalli che si spezzano col fiato di un istante che ci lascia sempre soli qui. Bene, continuiamo con le menzioni. Sabato 7 aprile, sempre domani, stavolta alle ore 21, i Tequila Sunrise ritornano al Teatro del Navile nell'ambito di Cuore di Vinile, il format di musica in teatro ideato e condotto dai cantautori Marcello Romeo, Marco Belluzzo e Gianluca Naldi. La più affermata cover band italiana del gruppo statunitense degli Eagles torna a far rivivere le atmosfere musicali del country rock anni 70, le luci e le ombre del sogno americano, le sensuali ballate melodiche della West Coast con robuste iniezioni di rock. I Tequila Sunrise rendono omaggio alla tradizione della più schietta musica popolare americana, con un'accurata esecuzione filologica, ma sempre venata di una sottile ironia, del repertorio degli Eagles che raggiunge il suo apice con l'immancabile Hotel California. I Tequila Sunrise, nome ispirato a una delle ballate degli Eagles, ripercorrono la carriera delle Cinque Aquile a partire dalle prime canzoni datate 1972 fino ai nuovi brani che il quintetto targato USA ha presentato al pubblico dopo essersi riformato nel 1994. Questo è Al Teatro del Navile, domani sera alle 21, l'ingresso è 10 euro in via Marescalchi 2B e trovate tutto naturalmente, come al solito, da domattina su www.coxospaziale.blogspot.com. A questo punto ci allarghiamo e soprattutto per i ventenni che magari non sanno nemmeno chi siano gli Eagles, che è abbastanza probabile effettivamente, perché devo dire che anch'io da bambino, visto che questi sono partiti nel 72, non è che poi gli Eagles li ascoltassi tantissimo. Sicuramente Hotel California forse la conoscono tutti. Ascoltiamoci questa intanto. I like the way sparkling earrings lay against your skin so brown, and I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around, 'cause I got a era Peaceful Easy Feeling degli Eagles. Scusate, la seguiamo, ma io obiettivamente ho ascoltato tre pezzi degli Eagles per cercare di decidere quella che mi piace di più, ma lasciamo stare. Andiamo avanti con le nostre menzioni invece. Martedì 10 aprile, ore 16, se siete a Roma, sarete a Roma, chi lo sa, martedì 10 aprile, io sarò a Torino, non so voi. Comunque, nell'aula 1 del Dipartimento di Storia dell'Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia, Tre Coins nella Fountain, un omaggio a Duchamp per il 101esimo anniversario della prima esposizione di Fountain. Lezioni performative di Andrea Lanini, Pasquale Polidoro, Cesare Pietro Iusti. Introduce Carla Subrizzi a cura di Carolina Latour. Il 10 aprile 1917, in occasione della mostra della Society of Independent Artists al Grand Central Palace di New York, veniva per la prima volta esposto e rapidamente nascosto Fountain di Marcel Duchamp. In totale alterità con le prassi delle celebrazioni legate al centenario, festeggiamo duchampianamente i 101 anni da quella data con tre lezioni performative che tenteranno di raccontare il celebre orinatoio con un approccio inedito e trasversale. Le relazioni tra l'opera di Duchamp e la dolce vita di Fellini verranno messe in luce da Andrea Lanini e graficamente rappresentate nella sua complessa opera Mappa concettuale. In seguito, una nuova proposta interpretativa della firma Remoot sarà presentata da Pasquale Polidoro e accompagnata da una lettera di Colette a Jean Cocteau. Infine, il concetto di reversibilità sarà al centro della lezione di Cesare Pietro Iusti e verrà sperimentato attraverso una performance idraulica. tre nuovi spunti di riflessione, tre monete, coins, ma anche to coin, coniare, creare, da spendere insieme, conservare nel proprio salvadanaio o lanciare all'interno come desideri nella fontana. Tre coins nella fountain è il martedì 10 aprile alle ore 16 alla Sapienza, al Dipartimento di Storia dell'Arte, Aula 1. Per contatti c'è anche un'email, latourcarolina@gmail.com. Sempre martedì, stavolta ritorniamo nella nostra cara Bologna, abbiamo Roberta Giallo e le Diva in via Bravo Caffè, in via Mascarella 1. Abbiamo Roberta Giallo alla voce, Verdiana Zangaro o Zangaro, non saprei, alla voce anche lei, Greta Manuzzi alla voce, Roberta Pompa alla voce e Laura Bono, indovinate un po', alla voce. La cantautrice Roberta Giallo, che conosciamo benissimo, il cui recente L'oscurità di Guglielmo è stato eletto miglior disco dell'anno 2017 agli All Music Italia Award, torna al Bravo Caffè con Le Diva, un nuovo progetto con all'attivo un album intitolato 4 come le cantanti della band. Le Diva sono ex protagoniste di differenti talent show che hanno deciso di unirsi una volta che le luci di questi ultimi si sono spente. Il gruppo è formato da Greta Manuzzi, Verdiana Zangaro, Roberta Pompa e Laura Bono. Greta e Verdiana partecipano ad Amici nel 2013. Greta arriva seconda dopo essere stata scartata da Elio ai provini di X Factor del 2010. Invece Roberta Pompa, sempre nel 2013, partecipa a X Factor. Laura Bono vince Sanremo Giovani nel 2005 e nel 2006 partecipa a Music Farm ed è chiamata a sostituire Simonetta Spiri, anche lei ex allieva della scuola di Amici, quando questa decide di abbandonare il progetto. È una, tutta una questione abbastanza intricata. Come vedete, appunto, il mondo dello spettacolo, come il mondo dell'arte, è abbastanza machiavellico e ha tutti questi intrecci abbastanza particolari. Fatto sta che comunque il primo singolo che le fa conoscere al grande pubblico è L'amore merita. Purtroppo quello non ce l'abbiamo, ma invece abbiamo uno degli ultimi single di Roberta, della nostra carissima Roberta Giallo, che era anche già stata in studio a Coxo Spaziale a farci dei live con il suo simpatico ukulele. Roberta, la carriera di Roberta è stata lanciata all'inverosimile, sta andando benissimo, la salutiamo, la baciamo e la abbracciamo e ci ascoltiamo In amore muoio di frontale, che è una grammatica un po' particolare ma degno delle nostre sparute orecchie. Facile, il mio sguardo è così docile da lasciarsi accarezzare da ogni minima distrazione. Oh sì, oh, l'innamoramento facile, non mi importa se raccolgo briciole, a me piace farmi fulminare. In amore muoio di frontale, ma ora sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare. Io che cosa saprò portarmi via da questa realtà, è la realtà che io fugo, lo ammetto, e questo mondo da un po' mi sta stretto. E innamorarmi di te mi porta via da me, innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto. Oh, un'eccitazione facile cresce con intensità invidiabile, ma sai questo mi fa stare male quando non la posso controllare. Ma ora sei tu che mi fai sobbalzare, poi domani chissà staremo a guardare. Io che cosa saprà portarmi via da questa realtà, è la realtà che io fugo, lo ammetto. E questo mondo da un po' mi sta stretto. E innamorarmi di te mi porta via da me. E innamorarmi di te mi porta via da quella me che io non sopporto. Alle volte non mi sopporto, no, alle volte non mi sopporto. Io proprio non mi sopporto. Ed è quando non mi sopporto che io fuggo da me per perdermi in te e scordarmi di me. E concludiamo il nostro angolo della menzione con un bando. Effettivamente è un po' di tempo che non raccontiamo che c'è un bando. Questa volta è un bando di teatro, per cui Fedra aguzza le orecchie e anche tutti i tuoi amici. Il progetto è torinese, si chiama PIP, Progetto Incanti Produce. La cola è del 2018, Controluce Teatro d'Ombre. Incanti, la rassegna internazionale di teatro di figura, promuove il bando PIP 2018, rivolto a studenti e professionisti del teatro di figura di tutto il mondo. Il PIP è un workshop gratuito intensivo tenuto da un artista o compagnia di fama internazionale nel mondo del teatro di figura e ha come finalità la produzione di uno spettacolo per il festival. Il Festival Incanti va in scena a Torino tutti gli anni, credo che sia ormai una decina d'anni se non di più, e attorno appunto a settembre. Il PIP 2018, in occasione dei 25 anni della compagnia che dirige il festival, verrà diretto da Controluce Teatro d'Ombre. Il workshop si svolgerà dal 27 agosto all'8 settembre con la creazione e le prove, dal 29 settembre al 2 ottobre le prove finali in teatro e lo spettacolo. La scadenza per la domanda di partecipazione è il 31 maggio, da inviare a info@festivalincanti.it. Dopodiché troverete tutto quanto, tutte le informazioni complete da domani, come al solito, su www.coxospaziale.blogspot.com, dove vi ridirezioneremo a un fantastico PDF che appunto vi racconterà tutto quanto, tutto quello che dovete sapere se siete una compagnia di teatro, se avete voglia di sbizzarrirvi con il teatro di figura e volete appunto partecipare al Festival Incanti. La puntata di Coxo Spaziale è finita, è una puntata un po' veloce, un po' così, ma la settimana prossima sicuramente avremo altre faccende da raccontarvi, anzi so già che abbiamo il Festival Poverarte, intervisteremo Fabrizio del Festival per capire che cosa succederà nel prossimo weekend, per cui non perdetevi la prossima puntata di Coxo Spaziale, come al solito su Radio Città Fujiko dalle 20 alle 21 ogni venerdì. Magari ci sarà anche Fedra, ma forse anche no, chissà, chi lo sa, lo scopriremo solo ascoltando Coxo Spaziale. Io come al solito vi lascio alle simpaticissime parole del nostro super mega direttore, che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. What's the worst thing that could happen? Da Stefano W. Pasquini è tutto, vi lascio con il resto della programmazione di Radio Città Fujiko. We could be just right. And sure, there's the chance that we'll both end up broken and split. But that's my kind of risk. I'm not trying to make you think this is some kind of great big deal. I just know exactly how you feel. Merci pour votre patience.